sole splende forte a piazza Plebiscito, mi sento rilassato, il corteo è finito. Il sole splende forte a piazza Plebiscito, le sirene, il cellulare, sono mezzo tramortito. A Roberta il mio pensiero non t'ho neanche salutato, schedato, picchiato, insultato, provocato. E intanto il sole splende a piazza Plebiscito, ma per me cala la notte, sono stato arrestato. L'incredulità, la rabbia, scotennato, i miei capelli, le mie cose, retaggio del passato, retaggio del passato. Arriva l'avvocato, sarei presto liberato, vi sconti il magistrato, l'arresto è confermato. E intanto il sole splende a piazza Plebiscito, ed io rimango al buio scalpitando sbigottito. E ancora tante guardie, le chiavi, i cancelli, e ritornano alla mente i momenti più belli, le lotte coi compagni, con tutti i miei fratelli. Ma chiudono i cancelli, chiudono i cancelli, chiudono i cancelli, chiudono i cancelli. Rappresaglia, rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia. Rappresaglia, rappresaglia, siete tutti vittime di rappresaglia. Rappresaglia, rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia. Rappresaglia, rappresaglia, siete tutti vittime di rappresaglia. Il bisogno di piangere costantemente unito alla rabbia, la voglia di lottare liberato. E intanto il sole splende a piazza Plebiscito, quel sole che è la lotta del movimento unito, che dal buio della cella non ho visto ma ho sentito, sentito nel cuore, sì, il vostro amore, la solidarietà con tutto il suo calore. Ti possono arrestare, la casa perquisire, da quello che ti è caro. Ti possono strappare, ti possono picchiare, ti possono umiliare, ma la lotta dei compagni non la possono fermare, nessun magistrato lo può neanche pensare. Rappresaglia, rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia. Rappresaglia, rappresaglia, siete tutti vittime di rappresaglia. Rappresaglia, rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia. Rappresaglia, rappresaglia, siete tutti vittime di rappresaglia. Il calore della lotta in galera è arrivato, l'ho sentito, sì, mi ha aiutato. Si fotta il magistrato, si fotta la NATO, si fotta il sistema che tutto ciò ha determinato. La vostra determinazione mi ha scarcerato, e adesso sono uscito, dici è tutto finito. Sono libero, sono libero. Libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero. Sono libero di essere processato, libero di essere ancora arrestato, libero di dormire agitato, pensando intensamente a ciò che non è stato, pestato da genti che in un solo minuto, se avessi voluto, avrei cancellato quei fottuti sorrisi da quei volti di stato. E sono perseguitato, smanio come un dannato, non riesco a accettare di avere accettato. Eppure so come niente sarebbe cambiato, so come tutto avrei peggiorato. Cosciente, sì, di essere diventato un fottuto numerino nelle mani dello Stato. 10 estrazioni, chiamate elezioni, non sei più nessuno, un fottuto burattino nelle mani di un padrino che organizza il tuo destino. Morto vivo in galera, in stato di libertà, sono libero, libero, sono libero, sono libero, però ma sente schiatta. Libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, ancora libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero. Urlalo sempre finché c'hai fiato, non tramonta mai il sole a piazza Plebiscito. Urlalo sempre finché c'hai fiato, asta sempre la vittoria del proletariato. Urlalo sempre finché c'hai fiato, non tramonta mai il sole a piazza Plebiscito.